Avendo dato a me stesso l'assicurazione che qualsiasi cosa avessi dovuto fare, Albertine sarebbe stata di ritorno a casa quella sera stessa, avevo sospeso il dolore che Françoise m'aveva provocato dicendomi che Albertine se n'era andata, perché il mio essere, preso alla sprovvista, aveva creduto allora per un istante che quella partenza fosse definitiva. Ma quando, dopo un'interruzione, con uno slancio della sua vita indipendente, la sofferenza iniziale rinasceva spontaneamente dentro di me, essa era sempre altrettanto atroce, perché anteriore alla promessa consolatrice che io m'ero fatta di riportare a casa Albertine la sera stessa, quella frase che l'avrebbe calmata, la mia sofferenza, la ignorava. Per mettere in atto i mezzi necessari a produrre quel ritorno ancora una volta, e non perché un tale atteggiamento mi fosse mai riuscito molto bene, ma perché l'avevo sempre assunto da quando amavo Albertine, ero condannato ad agire come se non l'amassi, non soffressi per la sua partenza, ero condannato a continuare a mentirle. Avrei potuto essere tanto più energico nei mezzi per farla tornare quanto più personalmente avessi dato l'impressione d'avere rinunciato a lei. Mi proponevo di scriverle una lettera d'addio in cui avrei considerato la sua partenza come definitiva, mentre avrei mandato Saint-Loup ad esercitare su Madame Bontemps, come a mia insaputa, la più brutale delle pressioni perché Albertine tornasse al più presto. Certo, avevo sperimentato con Gilberte il rischio delle lettere la cui indifferenza dapprima simulata finisce col diventare vera. E quell'esperienza avrebbe dovuto impedirmi di scrivere ad Albertine lettere dello stesso tipo di quelle che avevo scritto a Gilberte, ma ciò che si chiama esperienza non è che la rivelazione ai nostri stessi occhi d'un tratto del nostro carattere, che naturalmente ricompare e ricompare con tanto maggior forza in quanto già una volta l'abbiamo messo in luce per noi stessi. Cosicché il movimento spontaneo dal quale eravamo stati guidati la prima volta si trova ad essere rinforzato da tutte le suggestioni del ricordo. Il plagio umano, cui è più difficile fuggire per gli individui e persino per le nazioni che perseverano nei loro sbagli e via via li aggravano, è il plagio di se stessi. Saint-Loup, che sapevo a Parigi, fu mandato a chiamare all'istante. Accorse, rapido ed efficiente come un tempo ad Onsière, e acconsentì a partire subito per la Touraine. Gli sottoposi il seguente piano. Doveva scendere a Châtellerault, farsi indicare la casa di Madame Bontemps, aspettare, perché avrebbe potuto riconoscerlo, che Albertine fosse uscita. «Ma dunque», mi chiese, «la fanciulla di cui parli mi conosce?» Risposi che non mi sembrava. Il progetto di questa missione mi riempì d'una gioia infinita, eppure era in assoluta contraddizione con quanto m'ero promesso all'inizio, evitare di dar l'impressione che facessi cercare Albertine. E tutto questo l'avrebbe data, inevitabilmente, ma aveva, su ciò che si sarebbe dovuto, l'inestimabile vantaggio di consentirmi di dire a me stesso che qualcuno, mandato da me, avrebbe visto Albertine. Probabilmente l'avrebbe riportata a casa. E se avessi saputo veder chiaro nel mio cuore sin dall'inizio, avrei potuto prevedere che ad avere la meglio sulle soluzioni di pazienza sarebbe stata questa soluzione nascosta nell'ombra, che trovavo deplorevole e che ero deciso a volere per mancanza di volontà. Poiché sembrava già un po' sorpreso che una fanciulla avesse abitato in casa mia per un intero inverno senza che gliene avessi fatto cenno, e poiché, d'altra parte, mi aveva spesso riparlato della fanciulla di Balbec e io non gli avevo mai risposto «ma abita qui», Saint-Loup avrebbe potuto risentirsi della mia mancanza di fiducia. Madame Bontemps, infatti, gli avrebbe forse parlato di Balbec. Ma ero troppo impaziente di saperlo partito, arrivato, per volere, per poter pensare alle possibili conseguenze di quel viaggio. Quanto al riconoscere Albertine, che d'altronde aveva sistematicamente evitato di guardare quando l'aveva incontrata a Onsière, lei era, a detta di tutti, talmente cambiata e ingrassata che la cosa sembrava ben poco probabile. Mi chiese se non avessi un ritratto di Albertine. A tutta prima risposi di no, perché sulla mia fotografia, fatta all'incirca al tempo di Balbec, non avesse modo di riconoscere Albertine, che peraltro aveva appena intravista nel vagone. ma riflettei che nell'ultima lei sarebbe apparsa ormai tanto diversa dall'Albertine di Balbec quanto l'Albertine in carne ed ossa di ora, e che non l'avrebbe riconosciuta in fotografia più che nella realtà. Mentre gliela cercavo, mi passava dolcemente la mano sulla fronte a mo' di consolazione. Mi commuoveva la pena provocatagli dal dolore che intuiva in me. Innanzitutto, sebbene si fosse separato da Rachel, quanto aveva provato allora non era ancora abbastanza lontano perché non avvertisse una simpatia, una pietà particolare per questo genere di sofferenze, così come ci si sente più vicini a chi ha la nostra stessa malattia. Inoltre aveva per me tanto affetto che il pensiero delle mie sofferenze gli riusciva insopportabile. Per colei che ne era la causa, concepiva così un misto di rancore ed ammirazione. Ero, ai suoi occhi, un essere talmente superiore che un'altra persona capace di assoggettarmi se l'immaginava come una creatura assolutamente straordinaria. Ero convinto che avrebbe trovato graziosa la fotografia di Albertine, ma siccome nello stesso tempo non pensavo che essa avrebbe prodotto su di lui l'impressione di Elena sui vecchi troiani, senza smettere di cercarla, dicevo modestamente: «Non aspettarti nulla, sai. Intanto la fotografia è mal riuscita e poi lei non è straordinaria, non è una bellezza, è soprattutto molto simpatica». «Oh sì, deve essere meravigliosa», disse Robert con un entusiasmo ingenuo e sincero, cercando di raffigurarsi l'essere che poteva gettarmi in una disperazione e in un'agitazione siffatte. «Non le perdono di farti soffrire, ma bisognava pur supporre che tu, artista sino alla punta delle unghie, uno che ama la bellezza in tutto e d'un tale amore, tu fossi predestinato a soffrire più d'un altro quando l'avessi incontrata in una donna». Finalmente avevo trovato la fotografia. «È sicuramente meravigliosa», continuava a dire il mio amico, non accorgendosi che gli porgevo la fotografia. Ad un tratto la vide, la tenne un istante fra le mani. Il suo volto esprimeva una stupefazione che giungeva sino alla stupidità. «È questa la fanciulla che ami?» finì col dirmi, in un tono nel quale lo stupore era tenuto a freno dal timore di irritarmi. Non fece alcuna osservazione. Aveva assunto l'atteggiamento ragionevole, prudente, per forza di cose un po' sdegnoso, che si tiene al cospetto di un malato, il quale, quando anche fosse stato fino allora un uomo notevole e amico vostro, ormai non è più niente di tutto questo, dal momento che, colto da pazzia furiosa, vi parla d'un essere celeste che gli è apparso e continua a vederlo nel punto in cui voi, uomo sano, non scorgete che un piumino. Mi resi immediatamente conto dello stupore di Robert, e che era lo stesso in cui mi aveva gettato la vista della sua amante, con questa sola differenza. Io avevo trovato in lei una donna che conoscevo già, mentre lui credeva di non aver mai visto Albertine. Ma la differenza fra ciò che vedevamo l'uno e l'altro d'una stessa persona era probabilmente altrettanto grande. Era ben lontano il tempo in cui, a Balbec, avevo cominciato appena appena, quando guardavo Albertine, ad aggiungere alle sensazioni visive delle sensazioni di sapore, d'odore, di tatto. Da allora vi si erano aggiunte delle sensazioni più profonde, più dolci, più indefinibili, poi delle sensazioni dolorose. In breve, Albertine non era come una pietra attorno alla quale sia caduta la neve, che il centro generatore di un'immensa costruzione che intersecava il piano del mio cuore. Robert, al quale tutta questa stratificazione di sensazioni rimaneva invisibile, non coglieva che un residuo che essa, al contrario, mi impediva di scorgere. A sconcertare Robert, quando aveva visto la fotografia di Albertine, non era stata l'emozione dei vecchi troiani che vedono passare Elena e dicono «Notre mal ne vaut pas un seul de ses regards», ma quella, esattamente inversa, che fa dire «Ma come? È per questo che si è tanto roso, ha tanto sofferto, ha fatto tante follie». Bisogna pure ammettere che questo genere di reazione alla vista di chi ha provocato i patimenti, sconvolto la vita, a volte causato la morte di qualcuno che amiamo, è infinitamente più frequente di quella dei vecchi troiani e anzi, per dirla tutta, abituale. E questo non soltanto perché l'amore è individuale, né perché, quando non siamo noi a provarlo, ci viene naturale considerarlo evitabile e filosofeggiare sulla follia altrui. No, il fatto è che quando esso ha raggiunto il grado a cui produce simili mali, la costruzione delle sensazioni interposte fra il volto della donna e gli occhi dell'amante, enorme uovo doloroso che lo inguaina e lo dissimula come fa uno strato di neve con una fontana, è già arrivata tanto oltre che il punto a cui si arrestano gli occhi dell'amante, il punto in cui egli incontra il proprio piacere e le proprie sofferenze, è tanto lontano dal punto in cui lo vedono gli altri quanto il vero sole è lontano da dove la sua luce condensata ce lo fa scorgere nel cielo. E intanto, per di più, sotto la crisalide di dolori e di tenerezze che rende invisibili all'amante le peggiori metamorfosi dell'essere amato, il volto ha avuto il tempo di invecchiare e cambiare. E così, se il volto che l'amante ha visto la prima volta è lontanissimo da quello che vede da chi ama e soffre, esso è, in senso inverso, altrettanto lontano da quello che lo spettatore indifferente può vedere adesso. Che sarebbe successo se, invece della fotografia d'una fanciulla, Robert avesse visto quella d'una vecchia amante? E non è nemmeno necessario che la vediamo per la prima volta, colei che ha provocato tanti disastri, per provare quel tipo di stupore. Spesso la conoscevamo, come il mio prozio conosceva Odette. L'ottica diversa, allora, si estende non soltanto all'aspetto fisico, ma al carattere, all'importanza individuale. Ed è tutto possibile che la donna che fa soffrire chi la ama sia sempre stata un'ottima ragazza con uno che non si curava di lei, così come Odette, tanto crudele con Swann, era stata la premurosa dama in rosa del mio prozio. O che l'essere le cui decisioni sono soppesate in anticipo, con non minor timore che se fossero quelle d'un dio nascosto da colui che l'ama, appaia come una persona senza importanza, troppo felice di far quel che si vuole da lei, agli occhi di chi non l'ama, come per me, che vedevo in lei soltanto quella Rachel con deux seigneurs che tante volte m'avevano proposto, l'amante di Saint-Loup. Ricordavo, la prima volta che l'avevo vista con Saint-Loup, la mia stupefazione al pensiero che ci si potesse torturare di non sapere cosa una donna simile avesse fatto la tal sera, cosa avesse detto sottovoce a qualcuno, perché mai avesse desiderato lasciarci. Ora, tutto quel passato, ma di Albertine, verso il quale ogni fibra del mio cuore, della mia vita, si dirigeva con una sofferenza vibratile e maldestra, sentivo che doveva apparire a Saint-Loup così insignificante come un giorno, forse, si sarebbe presentato a me stesso. Che a poco sarei forse passato, riguardo all'inconsistenza o alla gravità del passato di Albertine, dallo stato d'animo in cui mi trovavo in quel momento, a quello in cui si trovava Saint-Loup, giacché non mi facevo illusioni su quanto Saint-Loup potesse pensare su ciò che chiunque, tranne l'amante, può pensare. Ne soffrivo troppo di questo. Lasciamo le belle donne agli uomini privi d'immaginazione. Ricordavo la tragica spiegazione di tante vite costituita da un ritratto geniale e poco somigliante come il ritratto che il Stier aveva fatto a Odette. E che non è tanto il ritratto di un amante, quanto del deformante amore. Non gli mancava, cosa comune a tanti ritratti, che di essere al tempo stesso d'un grande pittore ed un amante, anche se si diceva che il Stier lo fosse stato di Odette. Questa dissomiglianza è la vita intera di un amante di cui nessuno comprende le follie, è la vita di uno Swann a testimoniarla. Ma basta che l'amante sia anche un pittore come El Stier, ed ecco che la parola dell'enigma è pronunciata. Avete sotto gli occhi, finalmente, quelle labbra che il volgo non ha mai viste in quella donna, quel naso che nessuno le conosce, quel portamento insospettato. Il ritratto dice ciò che io ho amato, ciò che mi ha fatto soffrire, ciò che non ho mai smesso di vedere è questo. Ricorrendo a una ginnastica inversa, io, che col pensiero avevo cercato d'aggiungere a Rachel tutto ciò che Saint-Loup le aveva aggiunto di suo, cercavo di togliere il mio apporto cardiaco e mentale alla composizione di Albertine e di rappresentarmela quale doveva apparire a Saint-Loup. come Mia Rachel. Ma tutto ciò che importa? Quelle differenze, quando anche le vedessimo direttamente, che importanza potrebbero avere per noi? Quando un tempo a Balbec Albertine mi aspettava sotto i portici di Ancarville e saltava nella mia auto, non soltanto non s'era ancora ispessita, ma, per il troppo moto, s'era eccessivamente assottigliata, magra, imbruttita da uno sgraziato cappello che lasciava spuntare solo la punta d'un naso senza grazia, e di lato due guance bianche come vermi bianchi. Ritrovavo ben poco di lei. Abbastanza comunque perché al salto che faceva nella mia auto io sapessi che era lei, che era stata puntuale all'appuntamento e non era andata altrove. E questo è quanto basta. Quel che si ama è troppo nel passato, consiste troppo nel tempo perduto assieme perché si abbia bisogno di tutta la donna. Si vuole soltanto essere sicuri che sia lei, non sbagliarsi circa l'identità, ben altrimenti importante che non la bellezza per quanti amano. Le guance possono incavarsi, il corpo smagrire, persino per chi all'inizio è stato più orgoglioso davanti agli altri del proprio dominio su una beltà. Quel pezzetto di profilo, quel segno in cui si riassume la personalità permanente di una donna, quell'estratto algebrico, quella costante, è quanto basta perché un uomo atteso nella migliore società e che a sua volta l'amava, non disponga d'una sola delle sue serate perché passa il suo tempo a pettinare e a spettinare fino all'ora di prender sonno la donna che ama, o anche solo a restarle accanto per essere con lei, o perché lei sia con lui, o perché semplicemente non sia con qualcun altro.